Sono il sovrano d'un regno che i suoi confini non ha. Questo mio splendido regno si chiama felicità. Sudditi son le stelle, le nubi sono i castelli, e nelle notti più belle detto le ci damo. Io sono il re, io sono il re dei sogni, e insieme a te dividerò il mio regno. Sol per te il tempo fermerò, e così giammai sfiorire ti vedrò. Io sono il re, e non ha mai tristezze accanto a te. Io vivo di dolcezze, sol così, guardandoti così, baciandoti fai nascere sogni d'ore nel cuore. Verrò con te, insieme a te, dividerò il mio regno, sol per te sorridere saprò, e io lo so, d'amor sorriderò. Così tenendoci per mano, stringendoci più fede avremo nel dolore.